Lorenzo Anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo. 1 luglio. Cosa debba essere Lotte per un malato, me lo mostra il mio stesso cuore infelice, più sofferente di tanti che languono in un letto di dolore. Ella trascorrerà alcuni giorni in città presso una signora da bene che, secondo il verdetto del medico, è prossima alla fine e in questi ultimi istanti vuole avere Lotte accanto a sé. La settimana scorsa andai con lei a far visita al pastore di San, un paesino che si trova sulla montagna a un'ora da qui. Arrivammo verso le 4. Lotte aveva portato con sé la sua seconda sorella. Quando entrammo nel cortile della casa, ombreggiato da due alti noci, il buon vecchio sedeva su una panca davanti all'uscio e appena vide Lotte sembrò rianimarsi. Dimenticò il suo bastone nodoso e tentò di alzarsi per andarle incontro. Lei lo raggiunse di corsa, lo costrinse a risedersi, accomodandosi accanto a lui. Gli portò tanti saluti da parte del padre e abbracciò il suo figliolo minore, un monello brutto e sporco che era l'ultimo prezioso frutto della sua vecchiaia. Avresti dovuto vederla intrattenere il vecchio, alzare la voce per farsi udire dalle sue orecchie mezzo sorde, raccontargli di persone giovani e robuste morte inaspettatamente, vantargli l'eccellenza di Carlsbad, lodando la sua decisione di andarvi l'estate prossima, assicurargli che lo trovava molto meglio, molto più arzillo di quando l'aveva visto l'ultima volta. Intanto io avevo presentato i miei ossequi alla moglie del pastore. Il vecchio si era fatto assai vispo e poiché io non potei astenermi dal lodare i bei noci che ci offrivano un'ombra così piacevole, cominciò, sia pure con qualche difficoltà, a narrarcene la storia. «Quello vecchio», disse, «non sappiamo chi l'ha piantato. C'è chi dice un pastore e chi dice un altro. Invece il più giovane, là dietro, ha la stessa età di mia moglie, 50 anni a ottobre. Suo padre lo piantò al mattino e la sera stessa nacque lei. Era il mio predecessore in questo ministero e quanto quell'albero gli fosse caro, le parole non arrivano a esprimerlo. A me non lo è certo di meno. Mia moglie stava proprio là sotto, seduta su una trave a fare la calza, quando 27 anni fa, da quel povero studentello che ero, giunsi per la prima volta qui, nel cortile. Lotte gli chiese notizie della figlia, pareva fosse nei prati con il signor Schmidt a vedere i braccianti, e il vecchio continuò il suo racconto. Raccontò come il suo predecessore gli si fosse affezionato, e così pure la figlia, e come egli ne fosse divenuto prima il vicario e poi il successore. La storia non era finita da molto quando la figlia del pastore giunse attraverso il giardino con il già menzionato signor Schmidt. Diede a Lotte un caloroso benvenuto e devo confessare che non mi dispiacque. Una brunetta sveglia, ben fatta, con la quale in campagna ci si sarebbe potuti intrattenere gradevolmente per breve tempo. Il suo innamorato, tale infatti si rivelò subito il signor Schmidt, era un uomo fine ma taciturno che non volle unirsi alla nostra conversazione, sebbene Lotte tentasse continuamente di coinvolgerlo. Mi irritava soprattutto il fatto che, come mi parve di capire dall'espressione del suo viso, a trattenerlo dal parlare non fosse tanto la limitatezza dell'intelletto quanto la caparbietà e il malumore. In seguito, la ragione di tutto questo divenne fin troppo chiara. Quando infatti durante la passeggiata Friederike si accompagnava con Lotte e talora anche con me, il volto di quel signore, già di un colore brunastro, si oscurava così visibilmente da indurre alla fine Lotte a tirarmi per una manica e a farmi capire che ero troppo galante con Friederike. Ora, nulla mi infastidisce come vedere le persone tormentarsi a vicenda e soprattutto vedere giovani nel fiore degli anni che dovrebbero essere i più aperti a tutte le gioie rovinarsi l'un l'altro quei pochi giorni buoni confisime contro natura e rendersi conto solo troppo tardi dell'insostituibilità di quanto hanno sperperato. Questo mi rodeva. E la sera, quando tornammo nel cortile davanti alla casa del pastore e sedemmo a una tavola a bere il latte e il discorso cadde sulla gioia e sul dolore del mondo, non potei fare a meno di cogliere la palla al balzo e di tenere un'appassionata arringa contro il cattivo umore. Noi esseri umani, cominciai, ci lamentiamo spesso che i giorni buoni siano così pochi e i cattivi così numerosi. Ma il più delle volte, mi sembra, ci lamentiamo a torto. Se il nostro cuore fosse sempre aperto per godere il bene che Dio ci procura quotidianamente, avremmo poi anche forza a sufficienza per sopportare il male quando viene. Ma l'umore non è il nostro potere, ribatté la moglie del pastore. Quante cose dipendono dal corpo. Se uno non sta bene, niente gli va a genio. Mi dichiarai d'accordo su questo punto. Vogliamo dunque considerare il cattivo umore una malattia? Continuai, e domandarci se non vi sia alcun mezzo per curarla? L'idea mi piace, disse Lotte. Io credo almeno che molto dipenda da noi. Ne ho la prova in me stessa. Se qualcosa mi infastidisce e rischia di guastarmi la giornata, balzo in piedi e vado in giardino a cantare un paio di contraddanze, passeggiando su e giù. Subito passa tutto. Volevo dire proprio questo, risposi. Con il cattivo umore è esattamente come con la pigrizia, e infatti esso è una forma di pigrizia. La nostra natura vi è assai incline, e tuttavia, se solo abbiamo la forza di farci animo, riusciamo a lavorare di buona lena e troviamo nell'attività un vero diletto. Friederike mi ascoltava con molta attenzione, e il giovane obiettò che non si è padrone di se stessi, e ancor meno si possono comandare i propri sentimenti. Qui però si tratta di un sentimento sgradevole, ribatté io, del quale chiunque si sbarazzerebbe volentieri, e nessuno sa fin dove possono arrivare le sue facoltà prima di averle messe alla prova. Certamente chi è malato si rivolgerà a tutti i medici in cerca di consiglio e non respingerà i più gravi sacrifici, le medicine più amare, pur di ottenere la salute desiderata. Notai che il buon vecchio sforzava l'udito per prendere parte alla nostra discussione. Alzai la voce rivolgendomi a lui. «Si predica contro tanti vizi», dissi, «ma ancora non ho sentito che dal pulpito si parlasse contro il cattivo umore». Ora abbiamo su questo argomento un'efficace predica di Lavater, compresa fra quelle sul libro di Giona. «Questo», rispose lui, «dovrebbero farlo i pastori di città. I contadini non soffrono di malumore, ma di tanto in tanto non nuocerebbe di certo. Sarebbe una buona lezione almeno per la moglie del predicatore stesso e per il signor amministratore». Gli altri risero e lui si unì di cuore a quell'ilarità, finché lo colse un accesso di tosse che interruppe per qualche tempo la nostra conversazione. Intervenne di nuovo il giovane. «Lei ha definito il cattivo umore un vizio. Questo mi sembra eccessivo». «Niente affatto», replicai. «Se merita tale nome ciò che nuoce a noi stessi e al nostro prossimo. Non ci basta non essere in grado di renderci felici a vicenda. Dobbiamo anche defraudarci l'un l'altro di quel piacere che talvolta ogni cuore riesce ugualmente a procurarsi. E mi nomini una persona che, pur essendo di cattivo umore, sia tanto stoica da nasconderlo, da sopportarlo da sola, senza distruggere la gioia intorno a sé. O non si tratta piuttosto di un intimo scontento della nostra stessa indegnità, di un'insoddisfazione di noi stessi, che si accompagna sempre con un sentimento ostile e invidioso, aizzato da una stolta vanità? Vediamo persone felici e non siamo noi a renderle felici. Questo ci è insopportabile». Lotte mi sorrise, vedendo il fervore con cui parlavo, e una lacrima negli occhi di Friederike mi spronò a continuare. «Guai», disse, «a chi si serve del potere di cui gode su un cuore per togliergli le semplici gioie che in esso germogliano spontaneamente. Tutti i doni, tutti i favori del mondo non possono risarcire un solo istante di quel puro piacere tratto da noi stessi, che l'invidiosa insofferenza del nostro tiranno ci ha avvelenato». In quel momento il mio cuore traboccava, i ricordi di tanti eventi trascorsi mi si accalcavano nell'anima e le lacrime mi salivano agli occhi. «Se soltanto», esclamai, «ci si ripetesse ogni giorno, nulla puoi fare per i tuoi amici, se non lasciar loro le gioie che possiedono e accrescere condividendola la felicità di cui godono. Quando hanno l'anima tormentata fin nel profondo da una passione angosciosa, quando sono sconvolti dal dolore, sei forse in grado di offrir loro una sola goccia di conforto? E quando l'ultima, la più spaventosa malattia si avventa su quella creatura la cui felicità tu avevi già seppellito nel fiore degli anni, e ora essa giace là, in preda allo sfinimento più miserevole, l'occhio guarda spento verso il cielo, il sudore della morte compare a tratti sulla fronte pallida e tu stai come un dannato al suo capezzale, sentendo con atroce chiarezza che con tutto il tuo potere non puoi fare assolutamente nulla, e nell'intimo ti attanaglia l'angoscia, perché daresti qualsiasi cosa per essere in grado di infondere alla creatura morente una goccia di vigore, una scintilla di coraggio. A queste parole il ricordo di una scena simile cui avevo assistito si abbatté su di me con tutta la sua violenza. Mi portai agli occhi il fazzoletto e mi allontanai dalla compagnia. E solo la voce di Lotte, gridandomi che era tempo di andare, mi fece tornare in me. E per strada, come mi rimproverò il mio modo troppo intenso di partecipare a tutte le cose, dicendomi che mi avrebbe distrutto, che avrei dovuto risparmiarmi. Angelo, per amore tuo, devo vivere. Luglio. È sempre presso l'amica morente. Ed è sempre la stessa, sempre quella creatura tenera e soccorrevole che ovunque volga lo sguardo lenisce dolori e crea persone felici. Ieri sera andò a passeggio con Mariana e con la piccola Malken. Io lo sapevo e feci in modo di incontrarla e proseguimmo insieme. Dopo aver camminato per un'ora e mezzo tornammo verso la città e giungemmo a quella fontana che mi era tanto cara e ora lo è mille volte di più. Lotte sedette sul muricciolo, noi rimanemmo in piedi davanti a lei. Mi guardai intorno e il tempo in cui il mio cuore era così solo riprese vita dinanzi a me. «Bella fontana», dissi, «da allora non mi sono più riposato alla tua frescura e a volte passando in fretta non ti ho neppure guardata». Chinai lo sguardo e vidi Malken che risaliva, dandosi un grande affare per trasportare un bicchiere d'acqua senza rovesciarlo. Guardai Lotte ed ebbi coscienza di tutto ciò che possiedo in lei. Intanto Malken arrivò con il bicchiere. Mariane fece per prenderglielo. «No», gridò la bambina con la più dolce delle espressioni. «No, Lotken, devi bere tu per prima». Fui così commosso dal tono sincero e affettuoso in cui pronunciò quelle parole che non potei esprimere il mio sentimento se non sollevando la bambina da terra e baciandola con trasporto, al che lei cominciò immediatamente a strillare e a piangere. «Ha fatto male», disse Lotte. «Io ero confuso». «Vieni, Malken», soggiunse, prendendola per mano e guidandola giù per la scala. «Ora lavati alla fonte fresca, subito subito, e vedrai che non ti succederà niente». Rimasi lì a osservare con quanto zelo la piccola si strofinava la faccia passandovi le manine umide, con quanta fede nel potere della fonte miracolosa di sciacquare via ogni impurità e di evitarle l'onta di vedersi crescere una brutta barba. Infine Lotte disse «Basta così». Ma la bambina seguitava a lavarsi indefessamente, quasi preferisse peccare per eccesso che per difetto. E ti assicuro, Willem, che non ho mai assistito con maggiore venerazione a un rito battesimale. E quando Lotte risalì, mi sarei volentieri buttato in ginocchio davanti a lei, come davanti a un profeta che avesse purificato una nazione dalle sue colpe. La sera, dominato com'ero dalla gioia, non potei trattenermi da raccontare l'episodio a un tale sulla cui umanità facevo assegnamento, essendo egli dotato di ingegno. Ma come cascai male! Disse che Lotte aveva commesso un grave sbaglio, che non si dovevano raccontare fandonie ai bambini, che una cosa simile avrebbe potuto generare innumerevoli errori e superstizioni da cui i bambini andavano invece protetti per tempo. Allora rammentai che quell'uomo, la settimana prima, aveva fatto battezzare il figlio. Perciò lo lasciai dire e in cuor mio mi serbai fedele alla verità. Dobbiamo fare con i bambini come fa con noi Dio, che ci rende felici soprattutto quando ci consente di seguire inebriati le nostre piacevoli illusioni. 8 luglio. Che bambini siamo! Quanto possiamo essere avidi di un semplice sguardo! Che bambini siamo! Eravamo andati a Valheim. Le signorine erano venute in carrozza e durante la passeggiata credetti di scorgere negli occhi neri di Lotte... «Sono un pazzo, perdonami, ma dovresti vederli, quegli occhi. Per farla breve, poiché le palpebre mi si chiudono dal sonno, le signorine salirono in carrozza e noi stavamo tutto intorno, il giovane V, Zelstad, Audran e io. Attraverso il finestrino esse chiacchieravano con quei tipi che certo erano piuttosto frivoli e fatui. Io cercai gli occhi di Lotte. Andavano dall'uno all'altro, ma su di me che solo per lei me ne stavo lì rassegnato, non si posavano mai. Il mio cuore le disse addio mille volte e lei non mi vedeva. Quando la carrozza partì, avevo le lacrime agli occhi. La seguii con lo sguardo e vidi l'acconciatura di Lotte sporgere dal finestrino e vidi lei voltarsi a guardare. A guardare me? Mio caro, in questa incertezza io sono sospeso. Questo è il mio conforto. Forse si è guardata intorno per me. Forse. Buonanotte. Ah, che bambino che sono. 10 luglio. Dovresti vedere la figura da idiota che faccio quando si parla di lei in società. Quando mi domandano se mi piace. Se mi piace. Per questa espressione nutro un odio mortale. Quale specie d'uomo può mai essere uno a cui Lotte piaccia? A cui non colmi tutti i sensi, tutta l'anima, se mi piace. Recentemente qualcuno mi ha domandato se mi piaceva Ossian. 11 luglio. La signora M sta molto male. Io prego per la sua vita perché soffro con Lotte. La vedo di rado, da un'amica, e oggi mi ha raccontato un episodio singolare. Il vecchio M è uno spilorcio avido e meschino che per tutta la vita ha imposto alla moglie ogni sorta di tormenti e di privazioni. Tuttavia, ella ha saputo sempre destreggiarsi. Alcuni giorni fa, quando il medico le disse che era condannata, lei fece chiamare il marito. Lotte era nella camera e gli parlò così. Devo confessarti una cosa che dopo la mia morte potrebbe provocare scompiglio e fastidi. Finora ho governato la casa nel modo più ordinato e più economico possibile. Eppure devo chiederti perdono, perché in questi 30 anni ti ho raggirato. All'inizio del nostro matrimonio tu stabilisti una piccola somma con la quale provvedere al vitto e alle altre spese di casa. Quando il nostro tenore di vita divenne più dispendioso, la cerchia delle nostre attività più vasta, non ci fu verso di convincerti ad aumentare in proporzione la somma settimanale di cui potevo disporre. In breve, lo sai bene, nei periodi di maggiore prodigalità pretendevi che io mi arrangiassi con 7 fiorini alla settimana. Li ho presi dunque, senza fare obiezione, e ogni settimana ho preso quel che mancava dai tuoi guadagni. Nessuno poteva sospettare che la padrona rubasse dalla cassa. Non ho sperperato neppure un soldo, e anche senza questa confessione sarei andata incontro all'eternità con fiducia, se non fosse per il fatto che quella a cui toccherà dopo di me il governo della casa non saprebbe venirne a capo con quella somma, mentre tu potresti sempre ostinarti a sostenere che la tua prima moglie ci era riuscita. Lotte e io discorremmo dell'incredibile accecamento di cui è capace la mente umana, al punto di non sospettare che ci sia sotto qualcosa se bastano 7 fiorini dove si vede un dispendio almeno del doppio. Ma io stesso ho conosciuto persone che avrebbero accolto senza il minimo stupore nella loro casa l'orciolo inesauribile del profeta.